Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela. In collaborazione con Apple e con Back to Work 24, state attenti perché questa sera invece di andare a mangiare la solita pizza, bere la solita birra, potreste decidere di devolvere i vostri 10, 15, 20, 100 euro in qualche cosa di diverso. Due idee, cominciamo a presentarle subito. La prima buona idea di oggi è lo Spons Fest, il festival nato da un'idea di Vinicio Capossela. 7 giorni e 7 notti di musica e colori dal 22 al 28 di agosto in Alta Irpinia, alla scoperta di luoghi e tradizioni spesso, troppo spesso dimenticati. L'obiettivo di questa campagna è raccogliere 20.000 euro. E allora è con noi Franco Bassi. Buongiorno Franco. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. In qualità di organizzatore dello Spons Fest. E allora, sì. Noi spesso chiediamo come lo dici in italiano, perché molte startup, molti progetti sono in inglese. I nomi. Qua Spons Fest che vuol dire? Spons Fest è un nome tradizionale irpino che sta a significare un po' lo sponsarsi, il mettere a mollo come il baccalà, quindi un po' una sorta di sfinimento, ecco, viene usato in questo modo. Poi è anche legato allo sposalizio, un po' un'abbreviazione di sposalizio, perché la prima idea di Vinicio, fatta ormai 4 anni fa, di fare questo piccolo festival, partiva dai matrimoni, ecco, dal momento matrimoniale e dello sposalizio, e quindi da lì è nato un po' anche il nome. Quindi, ma come si svolge in questa doppia valenza? Sì? Ma come si svolge questo festival? Cioè, cos'è la particolarità di questo festival? La particolarità nasce soprattutto dall'immaginazione di Vinicio, perché è un festival assolutamente fuori dagli schemi. Io sono un immigrato di ritorno, abito a Reggio Emilia, ma essendo amico di Vinicio mi ha chiamato ad organizzare negli ultimi 3 anni questo evento che, ripeto, è fuori da qualsiasi schema, perché cerca di organizzare quel che gli passa nella testa lui, e quindi lui passano in genere per la testa delle cose difficilmente realizzabili, però altrettanto belle, quindi certo. E state sono cercando luoghi sconosciuti, noi allestiamo un festival in luoghi praticamente impossibili, dove bisogna mettere acqua, luce, gas, generatore. Per esempio, facciamo qualche esempio di una location assolutamente incredibile, originale per un festival. Ma ad esempio l'anno scorso siamo partiti dalle fontane dell'Occhino, che erano delle vecchie fontane dove le donne del paese andavano facendo 3 chilometri più o meno a piedi a lavare i panni. Qui c'era una piazzetta dove poi ballavano e facevano musica. Noi li siamo andati a vedere il primo giorno, l'anno scorso erano completamente sommerse dalle foglie, dalle frasche, lungo una carraia impossibile da raggiungere. Li abbiamo prima dovute pulire, colorare, fargli tornare l'acqua. E renderle una location adatta. Perché questo è Spons Fest, allora abbiamo spiegato un po', questo è Spons Fest, perché avete deciso di approdare al crowdfunding, cioè di chiedere il sostegno della gente, dei finanziatori? Certo, perché queste idee sfuggono quasi sempre alle logiche commerciali, perché è molto facile fare un festival dove sotto un capannone dove vendi birra e dove con l'incasso riesci a pagarti i musicisti che suonano. Qui, essendo idee particolari, noi abbiamo dedicato ad esempio l'anno scorso il festival Mi sono sognato il treno lungo i caselli ferroviari che sono poi stati smessi in una ferrovia che oggi non funziona più, che è l'Avellino Rocchetta, e proprio quest'anno riusciamo a rinaugurare questa tratta ferroviaria con un treno letterario, proprio per l'eco che si è dato a questo evento e anche alla necessità di rimettere in moto una ferrovia. Quindi sono sogni che credo solo dal basso possono essere finanziati e compresi. Quindi hanno la necessità del supporto. E quali ricompense avete immaginato? Questo è uno dei momenti che preferisco, Franco, perché ogni investitore, ogni potenziale investitore, ognuno che vi darà una mano, in cambio riceverà qualche cosa. Beh, io ti dico quelle che a me piacciono di più, ovviamente, certo. Perché alcune sono tradizionali, la maglietta e la spilletta, insomma tutte delle cose abbastanza normali. Ma ad esempio una ricompensa è farsi barba e capelli da sicuranza, che è il barbiere di Calitri, un personaggio pieno di racconti, di storie, che mentre ti fa la barba e i capelli ti racconta soprattutto del paese, delle loro tradizioni, delle loro culture. Quanto bisogna metterci per vincere, per avere come ricompensa il barbiere? Beh, il barbiere sono 20 euro, io l'ho fatta subito, sono stato il primo. Ah beh, ci sta, quella, beh, no? Mi sembra onestissimo, mi sembra onestissimo. No, onesta, assolutamente. Poi c'è la lezione di batticulo, che è un'altra, un ballo tradizionale irpino. Come funziona il batticulo? Il batticulo è si battono il culo, però è un ballo di compagnia, devi avere un buon... Cioè io batto il culo a te e tu batti il culo a me, così... Più o meno, sì, più o meno, io lo devo meno. Ancora imparare. Va bene. Queste però, sono alcune insomma, delle ricompense. Sì, resta con noi Franco Bassi, organizzatore dello Spons Fest, perché poi ti daremo 30 secondi in fondo per fare l'appello finale per convincere i nostri ascoltatori a investire sul tuo progetto. Esattamente, la seconda buona idea di cui vi parliamo oggi è, ha un nome e un cognome, in realtà si chiama Lorenzo Vinci, si tratta di un sito di e-commerce che propone una selezione di prodotti di enogastronomia made in Italy. Lorenzo Vinci seleziona infatti prodotti di eccellenza italiani e li rende disponibili per le tasche di quasi tutti, speriamo. È con noi Federico Pastre, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Fondatore di LorenzoVinci.it. Pensavo che il fondatore di Lorenzo Vinci si chiamasse Lorenzo Vinci. E invece no. La domanda è scontata. E vabbè, io ormai ci sono abituato. Immagino, beh, non è che è scontata. È che è strano l'idea. Prego. Allora, niente, sì, come dicevate voi giustamente, il nostro progetto parte da un'esigenza che è sostanzialmente quella di molte persone che girano per l'Italia, sarà sicuramente capitato anche a voi, e provare alcuni prodotti tipici di enogastronomia molto particolari, sì, realizzati dai produttori locali tramite metodi produttivi artigianali e molto antichi, tramandati di generazione in generazione, e poi tornare a casa e sostanzialmente rimpiangere di non averne fatto scorta perché non riuscite più a trovarli al supermercato o comunque sotto casa. E di solito uno, sì, va da Italy a quel punto, invece? Esatto, invece la buona notizia è che adesso c'è un nuovo portale che si chiama lorenzovinci.it, che sostanzialmente soddisfa questa esigenza, per cui noi andiamo a selezionare realtà molto piccole, per cui veramente microproduzioni, quindi un target di prodotto che non trovate per esempio da Italy, si tratta veramente di piccoli produttori, e li rendiamo disponibili su questo sito, un modello di vendita particolare, per cui non è un sito dove trovate sempre lo stesso catalogo, ma sono offerte a tempo, per cui solo per questo mese voi potete acquistare i prodotti di quell'azienda, supponi, non so, il Barolo piuttosto che il Salamino, ad un prezzo di offerta. Sì. Il catalogo è sempre variabile, ogni 30 giorni variano le offerte che ci sono sul sito, per cui è molto stuzzicante per un buon gustaio che sa di apprezzare il buon cibo, sì, ma sì, non ha esattamente capito o definito quali sono i prodotti che ricerca. Certo, ma se uno ha preso il Barolo e poi vuole di nuovo il Barolo due mesi dopo, il Barolo non c'è più, e uno cosa fa? A quel punto si beve il chinotto? No, allora intanto noi attrezziamo l'offerta di prodotti in modo che sia sostanzialmente sempre in termini di categorie merceologiche omogenea, per cui se oggi non trovi, se tu hai comprato un salamino di un produttore e vuoi continuare a mangiare quel salamino, quel tipo di prodotto, trovi un prodotto sostanzialmente equivalente di un'altra azienda. In ogni caso noi cosa facciamo? Visto che l'esigenza che tu mi manifesti esiste... no, beh, è un dubbio, chiedevo. No, ma è giusto. L'esigenza che tu mi manifesti esiste, sì, noi cosa facciamo? Nel momento in cui monitoriamo quali sono le persone che sono interessate a quel tipo di azienda, a quel tipo di prodotto, nel momento in cui l'azienda torna in offerta, mandiamo delle mail e avvisiamo... Delle simpatiche mail nelle quali, tipo newsletter, avvertite, certo. Guarda che il Barolo è tornato, esatto, disponibile. A me, per esempio, interesserebbe acquistare, ogni volta che vado nella zona della Tuscia, ci sono i brutti ma buoni, che sono dei biscottini... Che non si trovano mai da nessuno, vero? Hai capito, Carlo? Ma certo. Sono strepitosi. Mi raccomando, inseriscili, Federico. Però ci devi dispiegare perché hai scelto questo nome. Ce lo spieghi, Lorenzo Vinci? Allora, sì. Lorenzo Vinci, allora, intanto è un nome che ricorda ovviamente italianità, made in Italy, perché Lorenzo de' Medici e Leonardo da Vinci, è questo? Esattamente. È una bella sintesi. Basta, hai già spiegato, siamo a posto. Le ricompense per gli investitori. Le ricompense sono golosissime, come si poteva immaginare. Questa è l'arma segreta di LorenzoVinci.it. Esatto, Esatto, fino alla più interessante che sostanzialmente ce ne sono, vabbè, alcune classiche che sono alcuni gadget da cucina, può essere la presina, la pattina brandizzata, il cucchiaio, il cavatappi brandizzato. Sì. Brandizzato Lorenzo Vinci. Esatto, esatto, fino ad arrivare a un box assortito di prodotti da degustare. Ecco. E fino ad arrivare all'ultimo ad una cena con show cooking. Bravo, soprattutto questo perché è lì che volevamo arrivare. Avete 30 secondi ognuno per spiegarci perché dovremmo investire sul vostro progetto e non sull'altro. Esatto. Per esempio. Torniamo a SponsFest con Franco Bassi, 30 secondi. Ma io voglio iniziare con delle parole che ha pronunciato e pronuncia spesso Vinicio Capossela, che dice che l'Irpigna, l'Arpigna è un luogo di grandi spazi. Ecco, questi grandi spazi possono essere riempiti malamente, come è accaduto in passato, magari usando le piane del Formicoso per discariche dei rifiuti o riempire i monti di paleoliche. Ecco, con l'immaginazione, con l'arte, noi invece crediamo che questi spazi possono essere riempiti di bellezza. Eccolo qua. Così Basta. Non sforiamo per non togliere tempo prezioso anche a Federico Pastre, fondatore di LorenzoVinci.it. Anche a te 30 secondi per spiegarci perché dovremmo investire in questa tua attività. Allora, se siete dei buon gustai o comunque degli amanti del buon cibo, è la vostra occasione, nel senso che aiutateci ad esprimere il grandissimo potenziale inespresso in questo momento che c'è nel settore enogastronomico italiano. Tantissimi piccoli produttori che hanno bisogno di visibilità ed iniziare a vendere i loro prodotti online tramite il nostro canale. Bravo, ha finito anche prima. È un po' ansiogena questa cosa. Ottimo. del tic tac. No, è giusto. È giusto dare 30 secondi, un breve messaggio per chiudere. Grazie allora a SponsFest e a LorenzoVinci.it. Le due idee di oggi, progetti selezionati, ricordiamolo, da Apple e da Back to Work 24. Potete scriverci a crowdmeup@radio24.it. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Appela.